6B. Ascolta e controlla. 1. A che ora escono dall'aula? Escono alle 13. 2. Uscite sempre così tardi? Sì, usciamo sempre così tardi. 3. Che cosa fate ora? Facciamo gli esercizi. 4. Quando fate ginnastica? Facciamo ginnastica nel tempo libero. 5. Che cosa dicono? Dicono che sono d'accordo. 6. Dite di sì o di no? Diciamo di sì.